salutone a tutte e tutti, 29ª puntata di URU, la trasmissione di Radio Wombat su suoni, musica e notizie dal continente africano, in onda tutti i venerdì in diretta alle 21.30 appunto e in replica la domenica alle 10 la mattina e il lunedì alle 14.30. Ricordiamo che la potete ascoltare, anzi la state ascoltando da wombat.noblogs.org in streaming. E appunto wombat.blogs.org è il sito di Radio Wombat. Abbiamo anche l'account Twitter, twitter.com/radiowombatfi, Firenze, e la mail per comunicare per eventuali richieste, suggerimenti, critiche e via dicendo, posta wombat@insiberia.net. Ricordiamo anche che URU, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, lo potete ascoltare in podcast oppure scaricare il podcast per ascoltarlo successivamente, e lo potete fare andando sempre sul sito wombat.noblogs.org, sempre sul sito alla voce podcast, e si apre un menu a tendina in cui in ordine alfabetico ci sono tutte le varie trasmissioni Radio Wombat, e cliccandoci in ognuna di queste si aprirà un'ulteriore pagina in cui sono presenti i podcast delle varie trasmissioni, nel nostro caso di URU, in ordine crescente, cioè la trasmissione più recente è la prima che vedete. Stasera parliamo di Tanzania, quindi ascolteremo canzoni e cantanti, musicisti di questo paese, dell'Africa del Sud, che ha una particolarità che condivide con i suoi vicini Kenya e Mozambico, e cioè che c'è una grossa differenza tra l'entroterra e la costa, e nel caso della Tanzania costa e Zanzibar, la grande isola davanti, e cioè che l'entroterra ha radici animiste, adesso cristiane, con pastori, all'inizio cacciatori, raccoglitori, adesso poi coltivatori, eccetera, mentre le coste e Zanzibar sono il risultato di un meticciato da tutti quelli che ci sono passati, e quindi sono per esempio di religione musulmana e hanno la loro musica e anche le abitazioni, le costruzioni, eccetera, risentono del passaggio di diversi popoli. Zanzibar addirittura è stata la capitale dell'Oman per un periodo. Poi ha subito influenze indiane, persiane, quindi è stato un crogiolo che ha modificato sostanzialmente tutta la costa, quel pezzo di costa, Kenya, Tanzania e Mozambico, rispetto all'entroterra. Sì, portiamo i Master Music of Tanzania, in questo caso appunto rispetto a quella che è stata spiegata precedentemente, cioè questa differenziazione, almeno da un punto di vista sonoro, diciamo, delle radici, delle sonorità tanzaniane. Qui stiamo parlando dell'interno. I Master Music of Tanzania sono essenzialmente l'ensemble fondata da Ukwe Zawose, che era un pastore sostanzialmente, un pastore con una straordinaria voce che lo faceva andare da soprano a basso, sempre nello stesso pezzo musicale. Zawose ha iniziato cantando la musica tradizionale del popolo Wagogo, e appunto il popolo Wagogo viveva nelle aree rurali dell'allora Tanganyika. Ricordiamo appunto che Tanzania è l'unione tra il nome di Tanganyika, che è all'interno, diciamo, anche se in questa casa anche la costa, e Zanzibar, che è l'isola insieme alle altre isole vicine, appunto da Tanganyika e Zanzibar, Tanzania. E ritornando a Ukwe Zawose, il leader, il fondatore dei Master Music of Tanzania, non ha avuto una grande formazione musicale da questo punto di vista, soltanto che lui è cresciuto come guardiano di bestiame diciamo, cantava mentre lavorava. E successivamente ha iniziato a cantare andando di villaggio in villaggio, un musicista itinerante, e quindi gradualmente ha aggiunto al suo repertorio anche altri, oltre alla voce, anche gli strumenti tradizionali tanzani, in particolare il flauto tradizionale tanzano, un flauto molto simile a quello che conosciamo. Poi c'è il filimbi, l'anguga, che è una specie di campanello, e ha cominciato anche a scrivere le proprie composizioni. Dopo l'indipendenza della Tanzania nel 1961, il primo ministro Nyerere, il Mwalimu, il maestro, qui ricordiamoci, stiamo parlando di soggetti, di personalità che non sono assolutamente paragonabili a quelli che vediamo ora in Africa. Nyerere, insieme a Kwame Nkrumah, insieme a Sekou Touré, insieme a Ben Bella, sono i padrini, i fondatori, i riferimenti dell'indipendenza delle popolazioni africane e del panafricanismo, dell'indipendenza dal regime colonialista. Quindi Nyerere lo invita a suonare, a dare il salam, diciamo, al Parlamento, e da lì comincia, diciamo, la sua scalata da un punto di vista della conoscenza, dell'essere conosciuto anche al di fuori, diciamo, delle proprie, del proprio popolo, diciamo, della propria etnia Wagogo, e fonda Master Music of Tanzania e incide insieme a Master Music of Tanzania fino a essere partecipante a uno dei festival della world music, chiamiamolo così, più famosi, WOMAD, con la track Animal Nation. E tuttora Zawose vive una vita tradizionale, diciamo, nel suo villaggio. E niente, vi facciamo ascoltare di Zawose un pezzo, si intitola, anzi, Master Music of Tanzania, fondati appunto in quel leader principale della Zawose, vi facciamo ascoltare Chisanga, con l'avvertenza che è un pezzo con un volume abbastanza basso, diciamo, perché è la digitalizzazione, diciamo così, di una incisione, di un'incisione su cassetta, tant'è che appunto non c'è neppure un vinile, e tantomeno una digitalizzazione MP3 o comunque in altri formati musicali che conosciamo. Quindi questa è Chisanga dei Master Music of Tanzania. Thank you.

E appunto questa era la musica dell'interno della Tanzania, la musica dell'entroterra, quello che vive tuttora, prevalentemente di pastorizia, di armenti, insomma. Mentre invece appunto sulla costa, e in particolare nell'isola di Zanzibar, c'è un genere musicale che va per la maggiore, diciamo, un genere musicale tradizionale, oramai tutta della Tanzania, è il Tarab, che è nato tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo proprio a Zanzibar, e gradualmente si è diffuso sulla costa dell'Africa orientale, dalla Somalia al Mozambico. Da notare che comunque, al di là delle differenze dello stile musicale, delle influenze che caratterizzano tutti questi stili musicali, sia l'interno che la costa e l'isola Tanzania, il suono, diciamo, le composizioni, i cantanti, le canzoni sono in Swahili. Ricordiamo lo Swahili, è anche la lingua da cui abbiamo preso la parola che dà il titolo alla nostra trasmissione, Uru, che in Swahili appunto significa libertà, liberazione, e lo Swahili è questa lingua, l'unica, diciamo, lingua africana che è una lingua ufficiale ed è parlata dalla stragrande maggioranza dei popoli, degli abitanti di Kenya, Tanzania, Uganda, ma anche in una parte del Congo e perfino Somalia e in Mozambico. E ritornando ai Tarab, lo stile Tarab fonde elementi provenienti dalla tradizione musicale delle diverse culture con cui il mondo Swahili, in particolare la costa e l'isola Zanzibar, ma anche Pemba e Mafia, sono venuti storicamente a contatto, e quindi il Medio Oriente, in particolare il Nord Africa, l'Asia, diciamo, e quindi una musica molto più arabeggiante. E Zanzibar si caratterizza anche per essere una fucina di cantanti, che e quindi anche una scuola che dà particolare attenzione anche alle sonorità, alla voce utilizzata proprio come strumento. Un piccolo inciso, ricordiamo che uno dei cantanti più conosciuti probabilmente in campo musicale internazionale, in questo caso un bianco, è nato a Zanzibar, e non solo è nato, ma anche lì ha iniziato a cantare, ha affinato almeno all'inizio, fino a un'età, fino alla maggiore età, la propria tecnica vocale, andando proprio a cantare, imparando a cantare nelle scuole di Tarab, nelle scuole musicali di Zanzibar. Si tratta di Freddie Mercury, cantante dei Queen. Di questa Tarab, di questo genere musicale, vi facciamo ascoltare un primo pezzo, che sono i Vingaravayo, che appunto sono... Ah no, è il titolo della canzone, Vingaravayo. L'autore, cioè, è un ensemble, il Kawani Safa Musical Club. Sì, che è uno dei più grandi, un ensemble che è uno dei più grandi di Tarab, di musica Tarab. Addirittura si sono formati nel 1905 e adesso ancora suonano, naturalmente sono cambiate le persone, ma sono stati di sicuro protagonisti dell'età d'oro, il 65-75, del Tarab in tutta la costa, da Kenya, Tanzania, hanno suonato anche con Kalsum, che vi abbiamo fatto ascoltare sulla puntata dell'Egitto, quindi si capisce bene le influenze. Comunque suonano strumenti classici, ma anche, quindi, classici della costa, intendo dire, quindi più arabeggianti, ma anche bonghi africani, poi le chitarre, il piano, eccetera. Naturalmente l'influenza delle orchestre arabe si sente. Di loro vi facciamo appunto ascoltare Vingaraia. Shabbat shalom. Azo te kulabu Baba akimudu Takua ajabu Shaba Shaba kutu maumbile Shaba kutu maumbile Vingara vyo vyo vyo Tezina haku Pekine vyo shaga Pekine vyo shaga Nato uwekimu Vingara vyo vyo vyo Tezina haku Pekine vyo shaga Pekine vyo shaga Nato uwekimu Ricordiamo sempre Radio Wombat, sempre Uru, la trasmissione di suoni e notizie dal continente africano, che state appunto ascoltando in streaming dal sito wombat.blogs.org. La state ascoltando oggi è venerdì alle 21.30, come tutti i venerdì. Potete riascoltare Uru in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 14.30. E ritornando alla nostra 29esima trasmissione, parlo appunto della Tanzania. Nell'ultimo pezzo abbiamo ascoltato un pezzo di Tarab, la musica tradizionale o comunque la musica più suonata, più conosciuta di Zanzibar, e pensando a Zanzibar, come non parlare anche o comunque non fare un accenno alla tratta degli schiavi, e come dai bianchi il commercio passò nelle mani degli arabi, tant'è che dopo il 1860, nonostante che fosse formalmente abolito, almeno da parte della corona inglese, il commercio degli schiavi, il traffico umano era ancora troppo redditizio per essere abbandonato, e oltre a molti, seppur nascosti, negrieri bianchi, anche negrieri arabi continuarono in una forma ancora più su larga scala ancora, a portare avanti questa tratta degli schiavi, e decisero di trasferirsi dalle coste occidentali africane a quelle orientali, dove appunto è situata Zanzibar. Malgrado ciò, li costringesse a lunghe e pericolose circumnavigazioni dei continenti, tant'è che dovevano doppiare il Capo di Buona Speranza, cioè giù in Sudafrica, per entrare nell'oceano e far rotta verso l'America, ormai rimaste le sole acquirenti, anzi le principali, sì, le sole, nel senso che da lì poi venivano smistati da altre nazioni. Le Americhe erano rimaste le acquirenti principali dello scellerato cario appunto di schiavi. E i potenti sultanati di Zanzibar, Dar es Salaam, Mombasa e Malindi, sultanati nel senso erano retti dagli arabi, dalle nobiltà, tra virgolette, arabe, continuarono a portare avanti questa tratta di schiavi, opposero anche una resistenza alle azioni, diciamo, delle nazioni che non erano d'accordo più che con la loro tratta degli schiavi, diciamo, con i loro commerci in senso generale. E quindi niente, insomma, questa costa è stata pesantemente influenzata e depauperata, diciamo, dalla presenza proprio di persone ancora non è quantificabile quanto siano all'interno della più generale tratta degli schiavi, che si calcola di decine di milioni di schiavi, quanti siano quelli che sono partiti alla volta delle Americhe in ceppi, diciamo, in schiavitù dalle coste dell'Africa orientale. Ricordiamoci anche questo, che nonostante una formale chiusura della tratta degli schiavi nel 1860, in realtà questa tratta è continuata ad andare avanti anche negli anni successivi, e sotto certi aspetti, anzi neppure sotto certi aspetti, e che continua tuttora, seppure in forme diverse, ammantate di altre giustificazioni. Rimaniamo sempre a Zanzibar, Sì, e più che altro rimaniamo sempre con il Taarab, quindi con la musica Taarab, e parliamo di Mohammed Issa Matona, che è un musicista, un compositore, arrangiatore, autore delle proprie canzoni, ed è un membro fondatore della DAW Country Music Academy di Zanzibar. DAW, scritto D-H-O-W, si riferisce alle feluche costruite con i legni delle palme che fanno, che sono utilizzate per il trasporto, ancora oggi come, per il trasporto da, intorno a Zanzibar, intorno alle altre isole e anche sulla costa. Tant'è che se andate a Dar es Salaam, sulla spiaggia è pieno di feluche, perché li utilizzano per fare il trasporto. Sono quelle bellissime, grandi, con la vela bianca. Comunque, fondatore di questa Accademia di Musica a Zanzibar, di cui è stato il direttore artistico e il principale insegnante del Taarab tradizionale. Anche Matona è anche un multistrumentista e suona infatti nei suoi pezzi una grande varietà di strumenti, da quelli più tradizionali al sassofono, chitarra, violino, eccetera. Ha fatto anche performance di jazz fuse con il Taarab. Di lui ascoltiamo Msumeno. Segemano wakati wa kupasua, kazi kubwa segemano wakati wa kupasua. Utakutoka mguno tayari ushaumia. Ukitoka mguno tayari ushaumia. Ukileta mabishano bure utakujalia. Ukileta mabishano bure utakujalia. Precedentemente sullo Kavango vogliamo parlare di uno dei siti africani inseriti nella lista UNESCO e Patrimonio per l'Umanità, ma ci interessa più che altro parlarne in quanto non una bellezza naturale, una paesaggistica, ma perché testimonianza di una civiltà e quindi di una società e di una cultura, anche da un punto di vista urbanistico, architettonico, precedente alla venuta dell'uomo bianco. Stiamo parlando di Gran Zimbabwe, un sito vicino a Bulawayo, a Maswingo, una delle città principali appunto dello Zimbabwe, paese che trae il nome proprio appunto da questa civiltà, da questo luogo e quindi da questa civiltà che appunto si è originata nell'Africa meridionale, prima ancora dell'avvenuta del lobo bianco. Stiamo parlando di una città che si estende, anzi si estendeva su circa 20 km quadrati e che fu scoperta, almeno le rovine, furono già scoperte dai portoghesi alla fine del 1500, ma che poi successivamente furono dimenticate. Fu soltanto Cecil Rhodes, che raffetente quale era, che appunto, da cui appunto prende il nome, quello era lo Zimbabwe, cioè prima dell'indipendenza, cioè la Rhodesia, e che appunto uno dei massimi sfruttatori, colonizzatori e quindi sfruttatori dell'Africa, dell'Africa in questo caso meridionale, che lo riscoprì, la depredò e che diciamo, ne fece, ne voleva far risalire l'esistenza al fatto che fosse la città della regina di Saba. Tutto ciò con una logica molto lineare, cioè si voleva negare tutto ciò che fosse cultura antecedente alla venuta dell'uomo bianco, diciamo così. Non è così. Gran Zimbabwe è proprio testimonianza di una civiltà estesa, complessa e valida, diciamo, da un punto di vista della creazione urbanistica della città, tant'è che vi abitavano circa 20.000 abitanti, e che con gli scavi e con le ristrutturazioni, diciamo, attualmente è visitabile, e è stato scoperto, dopo è stato disboscato, diciamo, tutto il luogo in cui la vegetazione in cui era immersa, si vedono delle caratteristiche molto particolari. Gran Zimbabwe si trova su un altipiano tra i fiumi Zambezi e Limpopo, che sono tra i fiumi più importanti, se no i due fiumi più importanti dell'Africa meridionale, a un'altitudine di oltre 1000 metri, ed è costituita da bastioni e da una torre conica ben conservata, però alcuni tempi e costruzioni minori in pietra a secco. Quello che è salta subito agli occhi a chi l'ha visitata, noi l'abbiamo vista, e che il fatto è che non è che è tonda, cioè la torre è conica, i gradini sono semicircolari, le mura anche delle case normali sono stondate, e è una cosa molto molto particolare. Nessuno è riuscito a capire se questa particolarità delle costruzioni, questa particolarità dell'architettura fosse per qualcosa, diciamo, da un punto di vista della protezione ambientale, via dicendo, per esempio il fatto che le costruzioni a pianta circolare tengono meglio il calore oppure tengono meglio il freddo. Comunque nessuno l'ha ben capito, insomma. E la ricchezza della città, alcune stime che poteva ospitare appunto fino a 20.000 persone, e i ritrovamenti hanno dato l'idea, insomma, della prosperità, tant'è che sono stati trovati oro, ferro, di cui l'area è ricca, e soprattutto oggetti che fanno capire ci fosse un commercio continuo sulla costa. L'alone di mistero generato intorno alla tesi della regina di Saba, grazie anche alle ricchezze minerarie del paese, si diceva la regina, viene appunto derivante dal fatto che il paese Zimbabwe, l'odierno Zimbabwe, quindi la Zimbabwe, fosse ricca di oro, è tuttora ricca di oro, e che la regina nella Bibbia regalava l'oro. In realtà non è esistita una regina di Saba come viene descritta nella Bibbia. E appunto il fatto che si tentasse di accreditare la tesi che Gran Zimbabwe fosse residente della regina di Saba non era soltanto e solo per accreditare il fatto che la Bibbia aveva ragione, o comunque dare una veridicità storica alla Bibbia, ma soprattutto per dimostrare una supposta incapacità, tra virgolette, degli africani di costruire una civiltà complessa. studi archeologici degli ultimi tempi hanno dimostrato che a costruire la città in realtà furono popoli di origine africana, di origine bantu, quasi sicuramente gli Shona, che costruirono un regno a partire dal VII secolo fino al 1500, e che al suo apogeo fu denominato impero di Mono Mpatapa. Ricordiamo che questa parola compare spesso nella letteratura, nella musica, nella vulgata comune degli abitanti dello Zimbabwe, un po' come Uru, diciamo, proprio al significare le radici africane e il fatto che l'Africa non fosse incapace di costruire città e civiltà complesse. Adesso parliamo di un gruppo che cambiamo un po' musica e parliamo di un gruppo che si chiama Explastas, che è, abbiamo già sentito un pezzo nella puntata sull'hip hop, perché questa qui è infatti una crew tra le più famose dell'hip hop africano. Il loro stile è una contaminazione tra hip hop internazionale, diciamo, e la tradizione canora dell'etnia Masai, rappresentata dal cantante Merege, con le sue melodie vocali in lingua Maa, cioè la lingua dei Masai, si sovrappone al rap degli altri membri del gruppo, che invece cantano in Swahili e in Aia. I loro pezzi sono considerati dei classici del genere Bongo Flava. Che cosa vuol dire questa parola? Praticamente, letteralmente, vuol dire hip hop bongo flower, cioè, quindi hip hop al gusto flower in inglese, al gusto bombo. E bongo è nello slang tanzaniano, è uno dei nomignoli utilizzati per Dar es Salaam, la città dove il genere è nato. Di loro sentiamo Dunia Dudumizi. Romulo, Romulo Naldoño, Romulo Nayara, Enroiho, Enjiki Chalamari, Enroi Galari, Enroi Galami, Dunia Dudumizi. Ayo, Ella, yo, Sunday, Barry, Shalem, Dunia Dudumizi. Ayo, Ella, yo, never woman, Namorali. Binadam Matumizi, Natoki, for Tetusi Asaki, Natokana Matumizi, Dunia Dudumizi. Ayo, Ella, yo, Renda. Dunia ni sayari ya tatu, ndani yake kuna mambo mengi muhimu hasa ni matatu. Binadamu matumizi na chokifo. Tukianza na binadamu ndiyo sisi, na kifo chetu si hasa kinatoka na matumizi. Wengi wamekufa kiwa kwenye matumizi. Matanuzi, maangamizi ya virusi, wizi, ujambazi, ulozi na uchunaji wa ngozi. Yote shauri ya matumizi, lakini mpenzi shika moja nalokupa. Hapa duniani ukitaka shida na rwa utapata, lakini afa kunyata kwa mwendo kasi utofika, utakwisha. Kwani duniani sijo kila mtu anakupenda, na wala sijo watu wote wakutakiao mema. Mema watawanga usingizi usipate, hakukuchi na kila kukicha ulimwengu unazidi kuchafuka. Tunachotafuta hatupati, basi Bwana awe nasi. Dunia Dudumizi. Ayo, yale yo, Bwana roja ranaisho. Dunia Dudumizi. Ayo, yale yo, Rana gugisho miloru. Binadamu matumizi na chokifo, chetu si asa kinatoka na matumizi. Dunia Dudumizi. Ayo, yale yo, Ravale mugunyo imbeli. Duniani tunaishi kwa kubuni, wengine kuruvunili, mradi tuwaishi. Duniani kama jisan, sina pesa, sija tesa. Zarau zimeja, kwa lige nacho kumdara wasige nacho. Na asige nacho wakipata, wana mtolege macho. Ili na wapata licho pata sige nacho. Wakati wa wanavyo ni hao, walioko juu hawatakushuka chini, na walioko chini hawawezi kupanda juu, juu zaidi. Kipingamizi nini kipato cha matumizi. Lakini ukijaribu kuchunguza duniani, bado tupo safarini, na safari bado ni ndefu. Kila siku tunaimba tunapozika, simbali, simbali ni karibu, karibu nasi tutafika. Ni kweli tutafika, na hivi navyosikika ni wengi machozi yanawatoka. Kiyama chetu, kifo chetu, kizazi cha Nuhu, hakika tunauwa wenyewe kwa wenyewe, kwani Mola alishasema hatoangamiza tena kwa maji wala kwa moto. Kweli si uongo, tunauona mpambano jinsi ulivyo tizo, tizo juu ya matatizo. Yote hayo ni hapa hapa duniani, mbinguni uongo. Dunia dudumizi, ayo, yale yo rana ugisho milo. Dunia dudumizi, ayo, amayani rarano meginto ingi. Binadamu matumizi na chokifo, chetu si asaki natoka na matumizi. Dunia dudumizi, ayo, yale yo roli magimbu wa yangare. Dunia dudumizi, ayo, yale yo rarano mengeri giri. Dunia dudumizi, ayo, binadamu matumizi na chokifo, chetu si asaki natoka na matumizi. Dunia dudumizi, ayo, yale yo gramlo ifumbo jarabwa. Dunia dudumizi, ayo, yale yo leme bigindra gudumira. Yeho yo, ayo, yale yo rushu malagar yalogonya. Yeho yo, ayo, yale yo rasa maboli serururo. Yeho yo, ayo, allora ricordiamo i nostri social. Il sito da cui state ascoltando la diretta, che è wombat.noblogs.org, e da cui potete ascoltare anche i podcast di Uru, ma anche di tutte le altre puntate, di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat, che anzi vi invitiamo a scoprire. Il profilo Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi. Vi ricordiamo che Uru ha un proprio profilo Twitter, che è uru-rw di Radio Wombat. La posta per interagire con noi, postawombat@insiberia.net. Vi ricordiamo anche che se vi siete persi una parte di questa trasmissione, potete ascoltarla domenica mattina alle 10 in replica, o lunedì alle 14. Torniamo ora. Vogliamo parlare un attimo, una sorta di carta d'identità di questo soggetto che non recentissimamente, ma abbastanza recentemente, circa uno o due mesi fa, è tornato a far parlare di sé in una forma diciamo minacciosa e via dicendo. Ma questo non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa è che Khalifa Belkacem Haftar, il generale libico che controlla una parte della Libia, appunto la Cirenaica, e Haftar è balzato appunto nuovamente sulle prime pagine del giornale quando ha dichiarato che avrebbe bombardato le navi italiane inviate in Libia dal governo italiano. Minacce naturalmente senza fondamento e soprattutto smentite dallo stesso soggetto solo alcuni giorni dopo. Haftar è un personaggio sinistro, diciamo, poco più che settantenne. Fino al 1987 era uno dei fedeli comandanti di Gheddafi, poi durante la guerra a un Trichad, e dopo essere stato fatto prigioniero si mise al servizio degli Stati Uniti. Fu condannato a morte in contumacia dal regime nemico e ha cercato di rovesciare lo stesso regime mio. Dal 1993 si è trasferito negli Stati Uniti. E ha lavorato per la CIA, ha ottenuto la cittadinanza americana e per quasi 20 anni non si sente più parlare di lui. Quando nel 2011 la Libia stava collassando, Haftar fu rinviato in Libia per partecipare all'insurrezione, cioè proprio il riferimento dei governi NATO, diciamo, da questo punto di vista, per partecipare all'insurrezione e mettersi a capo delle forze armate. Nonostante l'appoggio originario americano degli Emirati Arabi e quelli vicini all'Egitto e anche della Russia, Haftar non è riuscito a prendere il potere in Libia e nel 2014 ha provato un golpe e è fallito. Questo sta a dimostrare proprio che era solo, nonostante che i media mainstream, i governi occidentali lo accreditano come il referente in Libia, diciamo il loro referente in Libia, il fatto che nonostante gli appoggi anche diretti dal punto di vista degli armamenti della NATO, degli Emirati Arabi Uniti e via dicendo, non sia riuscita a prendere potere, la dice lunga su quanto sia impopolare Mr. Khalif Belkacem Haftar in Libia. Il motivo per cui ha minacciato le navi italiane ed è contrario agli accordi diretti con l'Italia è solo perché sta usando la leva dei migranti per ottenere ulteriori armi e finanziamenti, i quali sono già stati promessi dalla Francia a luglio e poi successivamente ha iniziato anche l'Italia a discuterne ora negli ultimi tempi. Il suo ragionamento è chiaro e in sintesi dice: se volete bloccare il flusso dei migranti bisogna fermarli alla frontiera sud della Libia, circa 8.000 chilometri, datemi mezzi, armi, veicoli, denaro, droni, elicotteri e quant'altro e io faccio il lavoro sporco, costo 20 miliardi di dollari. Insomma, il business delle migrazioni deve continuare perché lui possa fermarlo a modo suo e alle sue condizioni. È sempre più chiaro il caos libico ha generato un enorme flusso di denaro attraverso attività di vario genere, dal traffico dei migranti a quello del petrolio, dal traffico di droga e a quello delle armi. Ha permesso a molti di arricchirsi e Khalifa Belkacem Haftar, il referente, quello in cui trattano i governi orientali, è uno se non il maggiore di questi. Per questa ragione nessuno insiste su una soluzione reale del conflitto che porterebbe appunto alla riduzione del flusso di denari. Un paese instabile nel caos sulle coste meridionali, sulle coste non meridionali, del Mediterraneo meridionale, quindi le coste vicine all'Europa, una gallina all'uovo d'oro sostanzialmente. E chi la controlla detiene un potere immenso e fonti, canali di arricchimento altrettanto immensi. Questo è Khalifa Belkacem Haftar. Adesso ritorniamo alla trasmissione alla musica, volevo dire, con un gruppo che si chiama Ogwang Lelo Okoti e Paddy Geo, che è un maestro che è di Nayatiti in Tanzania ed è un maestro e una leggenda in Tanzania. È stato ed è il più grande artista di Nayatiti e è un'icona di questa musica. È stato un'icona fino alla sua morte. Quelli che vogliono ascoltare questa musica, la Nayatiti, non possono prescindere da questo leggendario gruppo. Di lui ascoltiamo Jacob Omolo. Majari, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Questo era l'ultimo pezzo della trasmissione. Vi volevamo dire che Urba è in vacanza per un mese, quindi ci risentiamo a ottobre. Nel frattempo ci potete riascoltare attraverso i podcast per le puntate che vi siete persi. Ci rivediamo a ottobre. Ciao a tutte e tutti.